attimo di sigla, 8 e 10 minuti per questo rientro in diretta in mostra, la rubrica del giovedì 22 giugno 2023. No, stavo pensando ancora con la musica della grande Donna Summer alla musica, pensate, la cultura popolare di adesso nelle sue trasformazioni. Love to Love You Baby, che ha dato scandalo quando ultimamente mi è capitato, facendo zapping in radio, di sentire una roba per l'estate 2023. Ovviamente non ne conosco l'autorialità di questa scrittura, che bacia lui, che bacia me, che bacia i cani, una roba agghiacciante, una cosa veramente che, mamma mia, guarda, mi si accappona la pelle a ripensare a quella narrazione musicale, a Clarubas. Eppure, comunque, allora, in mostra, bando alle polemiche, poi ognuno ascolta la sua musica, vabbè, e soprattutto per la rubrica in mostra, ognuno avrà poi modo di portare fino al 6 settembre la libertà e l'impegno che viene ispirata in questa esposizione a Palazzo Reale dal fotografo, fotoreporter Mario Dondero. Già dal titolo della mostra si lascia molto spazio a quella che è una figura che ha dato non solo con le immagini e con il lavoro fotografico, ma anche con una grande passione e un grande impegno. Sono diverse le sale, sono diverse le motivazioni di dialogo che c'è con il visitatore. Viene per la prima volta esposta questa ampia retrospettiva, uno dei protagonisti della fotografia italiana, anche per quello che ho voluto portare questa figura, come ho già detto più volte, importante di panorama, grande spicco sia italiano che ovviamente internazionale. L'esposizione offre uno sguardo complessivo sull'opera di Dondero attraverso questa selezione di immagini appartenenti a reportage e servizi fotografici realizzati lungo l'arco della sua carriera, dagli anni 50 agli anni 10 del XXI secolo, insieme a molte tra le fotografie più iconiche. La mostra, nella quale vengono presentati diversi scatti inediti forniti dall'archivio dell'autore, tra alcuni ritratti troviamo Pierpaolo Pasolini e Laura Betti. Ho avuto modo di contattare la curatrice, la dottoressa Raffaella Perna, per farvi entrare, per entrare a Palazzo Reale in mostra e conoscere le immagini di Mario Dondero. Palazzo Reale, Milano, sarà fino al 6 settembre 2023. Mario Dondero, La libertà e l'impegno. Siamo con la curatrice Raffaella Perna, che saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Cominciamo la nostra conversazione facendo una piccola identikit del protagonista. Mario Dondero è uno dei fotogiornalisti più rappresentativi del panorama italiano del dopoguerra. Ha iniziato il suo percorso giovanissimo a Milano, nelle redazioni di alcune testate, di quotidiani, soprattutto quotidiani, all'Unità, all'Avanti, all'inizio come giornalista di penna, e poi subito dopo è passato alla fotografia, e da quel momento in poi non l'ha più lasciata. Lui inizia negli anni, inizi degli anni 50, per finire poi la sua carriera, diciamo, con la morte nel 2015, e ha continuato a viaggiare in tutto il mondo, a fotografare storie e paesi diversi per oltre 60 anni. Sempre animato da uno sguardo molto politico, molto impegnato alla ricerca di storie rimaste in ombra e non al centro del dibattito pubblico. Sì, quindi il titolo, che comprende libertà e impegno, è assolutamente attinente con quello che è la personalità del protagonista. E quante opere troviamo nell'esposizione? In mostra ci sono 100 opere circa, 100 fotografie e un video documentario molto bello in cui Mario Dondero presenta il suo lavoro, ma anche lo fa in maniera molto da fabulatore, perché lui appunto era molto bravo anche con le parole e canta anche, ecco, c'è pure questo lato molto molto interessante del suo carattere, ecco, perché diciamo nel caso di Dondero il carattere, l'etica anche diciamo umana vanno veramente a coincidere con quello che è il lavoro professionale e lo sguardo fotografico. Can't seem to find the words to say. I don't have strength to play the games you need to play. Every day I seem to be running from the truth. Myself questions, but it just ain't no use. 'Cause it seems no matter what I try to do, I'm still loving and living, lying and losing every day. Every day. I've got a job, and to say the least, it don't thing. It don't mean a thing. It don't begin to compare with the hurt and pain that I've seen. I've seen. Sometimes I know I can't tell wrong from right. Wrong from right. I don't seem to know day from night. It's no small wonder that to give myself a little time to think. 'Cause it seems that more and more I start to realize that the truth that I wanted, the love that I needed, has somehow disappeared before my eyes. Lui è Gil Scott Heron. Come il mio amico Andrea ogni volta mi prega di pronunciarlo perfettamente, io da ignorantone dico Gil Scott Heron, invece Gil Scott Heron, lui è grandissimo. Le immagini in questo caso di Mario Dondero le ho volute commentare con delle B-side di questo autore poeta afroamericano di cui vi ho già parlato diverse volte, magari daremo qualche altra notizia. Per me lui è un tutti i tempi, questo è spesso presente nelle nostre playlist e continuerà ad esserlo. Anche questo disco ha avuto una storia veramente legata all'immagine, agli scatti, all'aspetto visivo, alla poesia, alla fotografia, e la fotografia che vediamo nella mostra di copertina con queste note è esattamente a commento, secondo me, di colonna sonora attinente. Mario Dondero, di origini milanesi, una delle più originali figure del fotogiornalismo contemporaneo. Da giovanissimo partigiano nella Val d'Ossola si è accostato molto presto al giornalismo, prima scritto, poi come fotoreporter, iniziando a collaborare nei primi anni 50 con l'Unità, con l'Avanti, con Milano Sera, legato al cosiddetto gruppo dei giamaicani, che erano i frequentatori del bar Giamaica a Milano, di cui era presidente Alfa Castaldi, Camilla Caderna, tante figure intellettuali dell'impegno nel dopoguerra, e con le immagini, la personalità, troviamo questi ragazzini nella foto di copertina che secondo me è una delle immagini più rappresentative, i ritratti anche che ha portato a grandissimi intellettuali, scrittori, i ritratti che riportano anche personalità legate al teatro, le diverse sezioni, entrando in mostra, che Raffaella Perna, curatrice dell'esposizione Mario Dondero, La libertà e l'impegno, a proposito di questa suddivisione e di questo percorso in mostra, apriamo la seconda parte di conversazione. In mostra ci sono 10 sale, diciamo, ogni sala dell'appartamento dei principi è pensata come una piccola micromostra dedicata a un tema specifico. Quindi abbiamo una serie di fotografie scattate in Portogallo e Spagna, nella penisola iberica, che è una dei luoghi dove è tornato più volte a fotografare. Poi abbiamo una sala dedicata all'Italia, una alla Francia, un'altra all'Africa, altro posto dove Dondero sin dagli inizi degli anni 60 è tornato a più riprese. E poi abbiamo una serie di sale dedicate ai ritratti intellettuali, diciamo a scrittori, artisti visivi, delle arti visive, poeti, diciamo mondo legato al cinema, attori, registi e al teatro. Ecco, diciamo c'è questa un'altra delle caratteristiche del lavoro di Dondero, è proprio quella di aver ritratto forse le migliori intelligenze degli anni 60 e 70, ecco, le ha sicuramente messe a fuoco con uno sguardo che è molto naturale. Ecco, questa è un'altra delle sue peculiarità, il fatto di scansare i tecnicismi e la perfezione, l'eccessiva perfezione tecnica. Lui dice troppa perfezione, troppa estetica uccide la verità, per cui all'interno dei suoi ritratti c'è sempre quest'aria naturale, un'aria un po' quasi da famiglia, no? Da album di famiglia in qualche modo, che lui adotta sia per fotografare i suoi amici artisti, ad esempio gli artisti romani della scuola di Piazza del Popolo con cui lui era in contatto negli anni 60, sia anche grandi personalità come scrittori come Samuel Beckett o filosofi come Guattari. Ha fotografato veramente un universo letterario, poetico molto importante. Sono molto noti i ritratti, ad esempio, agli esponenti, la foto di gruppo del Nouveau Roman, scattata nel 59 a Parigi, che un po' in qualche modo è la foto iconica che rappresenta un po' tutti questi scrittori sperimentali. E un'altra foto molto emblematica è quella di Pasolini con la madre, scattata a Roma nei primi anni 60. C'è questo bel ritratto in cui si vede questo rapporto di affettività profonda, quasi ancestrale, che lega Pasolini alla madre. Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Somehow, somewhere, you lost your way. And if you don't get it, 1971 sarà il primo successo universale, ecco, farà conoscere Gil Scott al mondo intero dal disco Pieces of a Man. È successivo al suo esordio. Il suo esordio avviene per la Flying Dutchman e sarà Small Talk at 125 and Lennox. Ecco anche questo brano meraviglioso di Gil Scott Heron. Lo teniamo come base fino all'arrivo della pubblicità. Aggiungo che il produttore era Bob Thiel, il produttore che sarà anche il producer di John Coltrane per il capolavoro assoluto Love Supreme. Gil Scott, poeta degli ultimi, un ritrattista di immagini che le portava dalle parole e dalle note al pianoforte, si presenta alla piccola label del produttore Bob Thiel, già riconosciuto, con questo lavoro unicamente di voce e pianoforte. Molto coraggioso, però Bob Thiel avrà altrettanto coraggio a dire: te lo faccio produrre, te lo produco, anche se ti puoi immaginare, insomma, è un disco un pochettino così, è strutturato in maniera minimale. Beh, sarà un discreto e importante successo per la critica. Ovviamente in seguito l'illuminato produttore dirà: ti metto a disposizione la possibilità di registrare in maniera più estesa la tua narrazione musicale, e arriveranno dei capolavori assoluti, insomma, come quello che stiamo ascoltando. The hatred is, the home is where the hatred, e questo, insomma, è il titolo che vi ho pronunciato in maniera estesa del brano che ci accompagnerà alla pubblicità, di cui autore è Gil Scott Heron. A tra poco continueremo a parlare di Mario Dondero con la curatrice Raffaella Perna, che ricordo è a Palazzo Reale, Milano. A tra poco. Welcome. My name is Gil Scott Heron. My accomplices are, first from left to right, Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simba Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders of the Simba Dance Group and a former drummer for the Red Porker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on. We'd like to do a poem for you called "The Revolution Will Not Be Televised." Life is one movement. I've been traveling as fast as I can, and I've inherited trial and error directly from my old man. I'm committed to the consequences, whether I stand or fall. And when I get back to my life, I think I'm gonna give her a call. Ecco, per me questa è la canzone d'amore più bella scritta da Gil Scott Heron. I think I'm gonna give her a call. Pensate che è tratta da un LP sottovalutato nella seconda parte della sua carriera, dove purtroppo i problemi di stupefacenti e alcol sono stato il gravissimo inciampo di un autore, un artista fenomenale. Ho voluto metterlo assieme con l'intro della sua prima poesia, dal suo primo disco, nel primo spazio dopo l'enunciazione e la presentazione di questo suo lavoro scritto. Ho lanciato Give Her Call da Spirits, che stiamo ascoltando come colonna sonora a proposito dell'esposizione a Milano Palazzo Reale fino al 6 settembre. La libertà e l'impegno, e queste due parole si attengono perfettamente alla filosofia di Gil Scott Heron, ma in questo caso il protagonista, sapete, le attinenze in musica e arte della rubrica In Mostra, è il fotografo e fotoreporter Mario Dondero. She didn't know, she could hardly believe how much she means to me. No, she wouldn't know. She could scarcely understand why I cling so desperately to dreams. But she's calmed me in the evening, she's calmed me in the night, calm my fear of dreaming, and maybe my fear of life. My life's been one of running away, just as fast as I can, but I've been no more successful at getting away than was my old man. But if you come to recognize the truth and understand that the truth is really all, then when I get back to my life, I think I'm gonna give her a call. E in questi ultimi secondi come fa girare il groove, seppur con un soul lento ma ben preciso, eh? Una canzone bellissima. When I get back to my life, I get back to my life, I think I'll come. Yeah, get back to my life, get back to my life, I think I'll come. Yeah, yeah, see, get back to my life, get back to my life, see, get back to my life, see, get back to my life, if I ever really get back to my life, back to my life, I think I'll come. See, see, see, get back to my life, get back to my life. Invece, per quanto riguarda i soggetti nella vita normale, chiamiamola così, anche lì lui lo, diciamo, è un fotografo che sta dalla parte dei deboli in qualche modo, no? Nel senso di persone che, diciamo, donne, uomini che non avevano sufficiente rappresentazione pubblica, per cui si trovano molti ritratti e molte fotografie di uomini al lavoro, donne al lavoro, in lavori anche usuranti, però si trovano anche, ecco, diciamo, non nello stereotipo del vittimismo. Ecco, Dondero riesce ad avere un'empatia umana, un desiderio di conoscenza, per cui non c'è differenza nel suo sguardo tra un intellettuale e un contadino o un operaio, diciamo, c'è un rispetto umano, una capacità di stringere relazioni che lo portava ad avere una sensibilità e un rispetto per il mondo del lavoro estremamente forte. Questo lato dello sguardo di Dondero in mostra è rappresentato, perché all'interno delle sale, quando ci si muove per aree geografiche, non ci sono delle differenze tra come dire, singoli cittadini, comuni cittadini e magari invece personaggi della politica o personaggi pubblici. Sì, c'è un'immagine, fra l'altro, che mi pare sia quella di copertina, dove sono ritratti dei ragazzi, dei bambini, sì, si può dire. Perché questa foto è stata scelta in maniera così rappresentativa? Un po' perché c'è questa idea della, di questo gioco di sguardi. A me piaceva molto quel bambino che si volta e guarda lo spettatore, in qualche modo interpella il riguardante, no? Per cui c'è questo gioco di sguardi che secondo me è interessante, ed è anche un'altra cifra che ricorre spesso nell'opera di Dondero. Quindi questo coinvolgere, farci trasportare lo spettatore all'interno di quella situazione. Credo che sia un'immagine che appunto riesca proprio a trasportare lo spettatore all'interno del contesto fotografico, all'interno di quella scena, no? E quindi in qualche modo è come se superasse la temporalità, no? In qualche modo ci coinvolge, ci porta lì. E per questa, diciamo, è una delle motivazioni che me l'ha fatta scegliere. Poi anche perché c'era questa idea di libertà che in qualche modo i bambini, con quelle loro come dire, espressioni così autentiche, così spontanee, incarnano. E all'immagine di copertina dell'esposizione dedico questa canzone, Gil Scott Heron, Save the Children. Are you watching your children playing after school? They seem to be have to take care of. We've got to do something, yeah, to save the children. Soon it will be their turns to try and save the world. Such a small part of. E in maniera circolare questa presentazione dell'esposizione, tra l'altro aperta da ieri, dal 21 giugno, proprio in contemporanea, possiamo dire di essere, grazie allo studio SC, tra l'altro, per la possibilità che sta dando al Breakfast Club di portare queste figure importantissime, l'ispirazione per poi accompagnarle con queste sonorità. E io direi, in maniera circolare, di chiudere questa anticipazione per quanto riguarda l'autore, fotografo, fotoreporter Mario Dondero. proprio su libertà e impegno. No, proprio il titolo Libertà e l'impegno, perché da una parte c'è questa esigenza di impegno politico. Lui fotografa questi ragazzi a Belfast durante un servizio che lui, cioè durante un periodo in cui fotografa l'Irlanda e soprattutto i contrasti tra protestanti e cattolici nell'Irlanda del 68. Quindi c'è da una parte questa idea di impegno sociale, dall'altra però c'è anche la sua libertà di sguardo, ma anche la libertà di scegliere una professione da freelance, perché ad eccezione di un brevissimo periodo negli anni 50, Dondero sarà sempre un fotografo freelance, autonomo, per cui senza, diciamo, come dire, anche la garanzia e la tranquillità di del lavoro all'interno di una redazione, ma con la possibilità di scegliere le storie che lo appassionano di più, anche di collaborare con testate nelle quali si riconosce dal punto di vista politico, perché anche questa è una scelta importante e coraggiosa, perché sì, rinunciare, lui aveva un buono stipendio all'interno di una redazione, lasciarlo, abbandonarlo per partire per la Francia, aprirsi a nuove esperienze in un mercato anche più competitivo, più professionalizzante, più professionalizzato, quello francese degli anni 50 rispetto a quello italiano, è stata una scommessa di vita che ha proseguito e ha portato avanti per tutta fino al 2015, insomma, e quindi questa idea di libertà mi sembrava fondamentale, e l'idea e la fotografia di copertina, che è un po' l'immagine guida della mostra, secondo me la incarnava. Certo, provenienza delle opere? Le opere provengono dall'archivio di Fermo ad Altidona, in realtà, perché Mario Dondero si è gli ultimi 15 anni di vita si è stabilito a Fermo, nelle Marche, e lì oggi ha custodito il suo archivio, che conta su oltre 600.000 negativi, insomma un archivio molto importante. Gli ultimi anni della vita il fotografo ha cercato di ordinarlo, e poi sono state stampate, abbiamo avuto il supporto di Laika per la stampa. Allora, sarà fino al 6 settembre 2023 a Palazzo Reale Milano, curatrice Raffaella Perna, che è qui con noi, Mario Dondero, La libertà e l'impegno. Grazie per questa anticipazione, le auguro buona giornata e le do appuntamento a un altro incontro in mostra. Grazie. Grazie a lei, a presto. A presto. Shadows cast by rainbows, there you'll meet the sage. Feeding rabbits bits of lettuce or cleaning out the cage. He can give you more direction than you ever known. Show you your bronze baby shoes now, my how you have grown. Ain't it nice to fly, you're waving as all clouds go by, but peace won't be still of its own free will. Say you want to go exploring, you got to find some truth. You can't stand one more day. E chiudiamo. Chiudiamo la puntata dedicata alla rubrica In Mostra come ogni giovedì. Domani andiamo in scena, triplo appuntamento a teatro sui 103.1, ma avremo anche un appuntamento in last minute per quanto riguarda la vigilia di Weekend, che sarà domani. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione, sperando di aver proposto una buona colazione anche per questa giornata, e invitandovi domani, chiaramente puntuali, mattiniere e mattinieri, alle ore 7. A breve di Pen Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, rassegna stampa, poi il grande rock con Andrea Gozza e Angela Zocco. Questa è la nostra mattinata, e a domani allora per l'ultima puntata settimanale. Poi entreremo ufficialmente nell'ultima settimana del mese di giugno, e con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, augurandovi un buon ascolto e un buon giovedì. Ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana. Ciao.